9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornato in studio, Oscar Giannino torna a partire dalle immagini che avrete sicuramente visto nei telegiornali di questi giorni e riprodotte poi anche da tutti i quotidiani nazionali. Sto parlando di questo relitto finalmente identificato, fotografato, finalmente ne abbiamo prove certe al largo di Cetrario in Calabria. È un relitto di cui da molti anni si sapeva, come da molti anni si hanno tracce, testimonianze, documenti di inchieste giudiziarie su molti di questi affondamenti sospetti relativi, pare, probabilmente, forse, non si sa, a traffico di smaltimento di sostanze tossiche e radioattive. E finalmente, dopo tanti anni di indagini che non sono andate da nessuna parte, di commissioni parlamentari che hanno posto interrogativi senza essere in grado però di far fare un passo concreto, abbiamo finalmente delle immagini, delle prove rispetto alle quali porci degli interrogativi e chiedere alle istituzioni di andare avanti nell'accertamento dei fatti. La domanda è: perché abbiamo dovuto aspettare tutto questo tempo e di che cosa in particolare si tratta? Allora, io inizio intanto a presentarvi gli ospiti grazie ai quali abbiamo compiuto in questi anni e oggi in questi passi decisivi per iniziare finalmente a dipanare da una coltre cornice di sospetti qualche fatto concreto. E abbiamo collegato con noi Francesco Neri, che è attualmente sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria. Buongiorno, dottor Neri. Buongiorno. E poi abbiamo Enrico Fontana, dirigente di Legambiente, che è curatore per molto tempo dei rapporti sulle ecomafie. È un termine che Legambiente ha contribuito molti anni fa a radicare nel dibattito pubblico italiano, ex responsabile dell'Osservatorio Ambiente e Legalità proprio per Legambiente, e pensate, nel 1995, quindi quasi 15 anni fa, consulente della prima commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Buongiorno Fontana. Buongiorno. Ecco, poi abbiamo Silvestro Greco, l'assessore all'ambiente in carica della Regione Calabria oggi, grazie al quale è stato possibile mobilitare uno strumento tecnico, questo mini sommergibile che ha prodotto le prove fotografiche di questo relitto a largo di Cetraro e che oggi giustamente chiede, vista la limitata copertura economica di bilancio a disposizione, che sia il governo e tutte le altre autorità a procedere non solo alla bonifica e all'accertamento di cosa c'è in quel relitto, ma soprattutto a tentare di capire quanti di quei relitti ce ne siano ancora nelle acque della Calabria. Buongiorno dottore. Buongiorno. Buongiorno assessore. Comincerei da lei. La risposta che lei si dà, ovviamente noi non possiamo che congratularci con lei, e tutti quanti le danno atto che se non fosse stato per lei che ha fatto saltare un po' di decine di migliaia di euro e ha reso disponibile questo mini robot sommergibile, in realtà staremmo ancora come al solito a fare chiacchiere e a interrogarci su domande senza risposte. Ma come mai è stato dal suo punto di vista necessario aspettare tanto tempo? Non le chiedo polemiche retrospettive, ma la spiegazione che si dà lei da cittadino prima che da amministratore in carica qual è? Qual è? Che in Italia c'è questa logica di cercare sempre di evitare problemi e quindi c'è una posizione di girarsi sempre dall'altra parte, o in ogni caso fare in modo che il tempo passi, perché il tempo copre tutto, nasconde tutto, quindi poi nessuno deve assumersi responsabilità, nessuno deve chiedersi perché è successo questo. Questo è uno dei grandi vizi del nostro popolo, insomma. Non penso ci sia altra spiegazione, se non ovviamente poi tutto il discorso legato a connivenze e quant'altro, ma quello io mi auguro che, insomma, poi la storia, perché non penso che ormai più una magistratura, ma che almeno la storia poi, insomma, trovi qualche figura su cui dire: ecco, questa è la tua responsabilità. A questo punto, per procedere a questa specie di ricognizione e accertamento dei tanti relitti di cui abbiamo almeno qualche testimonianza giudiziaria da accertare e da verificare se davvero sono in fondo al mare dove dicono i pentiti di 'Ndrangheta e così via, secondo lei cosa è possibile mettere in campo? Sarà lo Stato nazionale? Quale autorità dovrà incaricarsi nel suo giudizio? Sicuramente il governo. Il governo non può come dire questa storia non mi interessa. Non si può anche qua pensare che questo è un problema che magari hanno creato i calabresi, insomma, no? Perché ora stiamo assistendo da un periodo a questa parte a questo attacco verso questa regione, come se questa regione creasse tutti i mali del mondo. Questo delle scorie dei rifiuti tossici non è un male della Calabria, i calabresi lo subiscono insieme a tante altre cose che stanno subendo in materia di contaminazione, di inquinamento, eccetera, di rifiuti, eccetera. Ora il discorso qual è? Che per fare uno studio, io tra l'altro sono un biologo marino, sono un dirigente di ricerca dell'ISPRA, uno studio di questo tipo a mare comporta una serie di investimenti. C'è da fare una piccola premessa che lei, forse tante persone che ci ascoltano, non sanno, cioè che l'Italia non ha alcun sistema di lavoro subacqueo profondo, cioè noi non abbiamo neanche un batiscafo, l'Italia non ha un mesoscafo, l'Italia non ha nessun sistema per poter andare a fare prospezione su alto fondale. Questo è il punto di partenza. L'Italia sulla ricerca marina, la ricerca mare, ha sempre, come dire, sempre stata la Cenerenza. Noi siamo riusciti a fare gregge cose, noi, il Consiglio Nazionale di Ricerca, le università, con i fondi che recuperavamo dall'Unione Europea, da progetti di ricerca a privati ed altri. Quindi non abbiamo nonostante ci consideriamo un grande paese di navigatori, marinai, eccetera, noi non abbiamo un sistema di controllo del mare, neanche di studio, che nella fattispecie poi qua servirebbe per esempio già un batiscafo, per capirci, un piccolo batiscafo come quelli che hanno i francesi, ne hanno parecchi, tipo il Comex, i mini Bex, si potrebbe già fare un grande lavoro. Noi di queste cose non abbiamo nulla, quindi è chiaro che affittare una nave oceanografica con un sopra un batiscafo e magari poi con corredo di multibeam, se scansona, che questi ce l'abbiamo questi strumenti, ma che da soli non servono, è chiaro, è costoso, perché poi bisogna fare una mappatura. Perché poi tra l'altro voglio precisare una cosa: ora si parla della nave di Cetraro, no? Perché sì, è la nave che abbiamo trovato, e quindi è evidente. Però voglio dire, non è un problema della Calabria, cioè chi pensa di relegare il discorso alla Calabria e ai mari calabresi fa un errore grossolano, perché è evidente che se si parla di stenario, io poi sono i numeri. Come dire, cioè io cerco di restare sui fatti per servizio dei ricercatori, quindi su tutti questi gran numeri, però sicuramente, non dica sai, una decina, ci sono di queste, una decina, e sono in giro in tutto il Mediterraneo. Quindi questo è un problema realmente grosso, è un problema che bisogna affrontare assieme, ma dove sicuramente il governo italiano non può dire, io non me ne occupo perché non sono acque nazionali, non scherziamo insomma. E può essere naturalmente che chi è stato responsabile, ha organizzato, ha condotto le operazioni poi sfociate in questi inabissamenti contasse esattamente sul fatto che poi i mezzi a disposizione per le ricerche sulle profondità medie, alte, altissime, marine fossero naturalmente non solo inadeguati ma assolutamente assenti, quindi c'era la certezza, per così dire, dell'impunità. Al dottor Neri, al sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, che però è soprattutto un protagonista di questa vicenda perché parecchi anni fa tentò di indagare per anni su queste vicende degli inabissamenti legati allo smaltimento dei rifiuti tossici e soprattutto alla grande malavita organizzata. Ecco, dottor Neri, inevitabilmente la domanda da farle è: come mai poi l'indagine non andò da nessuna parte? Naturalmente tutti, nel chiamarla sempre in causa per tentare di ricostruire questa vicenda, le testimoniano uno straordinario impegno allora, però poi non fu possibile arrivare a nessun elemento fattuale. In effetti quando io iniziai le indagini cominciammo ad acquisire i primi elementi su questi affondamenti e anche sugli interramenti, perché non è solo l'indagine, non era solo sul fronte terrestre ma anche su quello marino, e indubbiamente noi arrivammo al punto di individuare una in particolare nave che era di nostra competenza, la Rigel, che era stata affondata a Capo Spartivento e i caricatori erano stati pure condannati per truffa alle assicurazioni. A quel punto però la morte del capitano di Grazia, che voglio ricordare qui perché è morto proprio per portare a termine le indagini, e soprattutto l'ostilità di molti che mi accusavano di andare a caccia di farfalle, di fare teoremi assurdi, e soprattutto il fatto che non furono dati i fondi all'epoca per fare le ricerche che oggi fortunatamente il dottor Giordano è riuscito a fare, e voglio complimentarmi con l'assessore Greco perché finalmente la regione si è resa conto di questa situazione, mentre in passato venivo accusato proprio dalla regione di essere io la rovina del turismo. giornalismo, quindi voglio dire, mi fa piacere da un lato che finalmente siamo a un passo dalla verità e speriamo di trovarle e di eliminarle. Diciamo, io ne accertai all'epoca quasi 27 sospette, ma ce n'erano molte di più. Ha ragione l'assessore Greco che non è un problema internazionale, non è un problema solo della Calabria. Ci sono navi anche affondate in Grecia, quindi voglio dire, lo scenario è molto più grande e molto più vasto. E ripeto, dopodiché mi spogliai della competenza perché si intravedeva il coinvolgimento della criminalità organizzata. La procura di Reggio Calabria ottenne i fondi dal ministro Flick, fece le ricerche in mare, ma purtroppo, come dice il collega Cisterna, le coordinate fornite dai Lloyd non erano esatte e con i mezzi a disposizione dell'epoca non si è riusciti a trovare una nave, ecco perché l'indagine rimase sospesa. Grazie al procuratore Giordano, bisogna dirlo, questo è al procuratore Greco, il sostituto di Paola, questo troncone della mia indagine madre che riguardava tutte le navi è stato riaperto e oggi vediamo i primi risultati confortanti alle tesi che io sostenevo. Sentiamo la voce diretta del pentito di 'Ndrangheta che da metà degli anni 90 collabora, diventa collaboratore di giustizia, Francesco Fonti, dal TG1 di ieri sera, che torna alla sistematicità di questi relitti inabissati che bisognerebbe identificare e li individua, li indica. Sono al largo di Nicotera Tropea, al largo di Melito Porto Salvo, al largo di Crotone, al largo di Cirò, poi verso il confine con il Metapontino. Ogni smaltimento veniva ricompensato da un minimo di 4 miliardi fino ai 30 miliardi. E questi soldi venivano versati nelle banche svizzere, in quelle di Cipro, in quelle di Malta. Ci sono tanti siti nel nostro paese dove sono stati seppelliti centinaia di fusti. Dottor Neri, la domanda che le faccio, poiché a chi non ha seguito tutto il filone delle denunce fatte dalle associazioni ambientaliste, da chi non ha seguito insomma l'attenzione con cui anche parecchi colleghi, penso all'Espresso soprattutto, ma non solo all'Espresso, parleremo più tardi, ci collegheremo con Carlo Lucarelli, giallista, autore TV, che ha fatto un libro uscito l'anno scorso proprio su tutto questo filone delle navi a perdere. Ecco, ma al di là di chi lo ha seguito con dedizione questo filone, è ovvio che l'opinione pubblica, la gente comune, dice: ma se questo pentito di 'Ndrangheta queste cose le diceva tanti anni fa, se lei ha tentato un'indagine che era sullo smaltimento a terra e in mare dei rifiuti tossici, quando lei ha detto all'inizio, la prima risposta, dice: molti mi dicevano che ero un matto, dicevo che inseguivo dei teoremi, quei molti erano nelle istituzioni, fuori, era qualche cosa che aveva a che vedere con gli interessi economici del processo di smaltimento o era direttamente anche l'espressione della malavita che diceva giù le mani, non toccate, e faceva parlare qualcuno in suo nome e suo conto per levarle credibilità? Ora che non ha più l'inchiesta, questa domanda gliela si può anche fare, per così dire, forse anche una maniera per aiutare i colleghi che oggi sono alle prese con il troncone di indagine riaperto. Lei che dice, dottor? La polemica non serve, in questo momento bisogna dare sostegno ai colleghi e invitare le istituzioni a essergli vicini, cosa che non fecero con me, e cercare di aiutarli in tutto per cercare la verità. Fonte viene dopo che io mi spoglio della competenza e quindi praticamente non avevamo questa fonte diretta, cioè lui praticamente si autoaccusa di aver affondato queste navi, quindi e ha dato con precisione, diciamo, punti di affondamento eccetera. Questo non c'era nella mia indagine, c'erano altri soggetti che avevano parlato di questo fenomeno, ma così genericamente. Fu il capitano De Grazia che aveva individuato attraverso i Lloyd, attraverso l'IMO, praticamente istituzioni internazionali, gli affondamenti e in particolare quella della Riegel. Quindi ripeto, non avevamo questa fonte, fonti non era per noi, non era nella nostra indagine. C'erano altre fonti tipo Aldo Anghessa e altri soggetti che avevano parlato di questo fenomeno e noi andavamo alla ricerca di queste navi, mi sono spiegato. Certamente. Ma la morte di De Grazia segnò un colpo durissimo a queste indagini. Un inaridimento assoluto delle possibilità di individuare dove erano davvero, mi pare di capire. Non solo, ma voglio dire, in questi anni io non ho altro che subito minacce, intimidazioni, attacchi delegittimanti, denunce di Alimadi sul caso Alpi, oppure diciamo del professore Taormina, allorché io parlai di un certo certificato, e oggi addirittura sono stato denunciato anche dai proprietari della Messina. Il 14 ottobre sarò in udienza e spiegherò al giudice quelle che erano le mie indagini. Eccoci tornati in studio, stiamo parlando con il dottor Neri, che per anni ha indagato sul fenomeno dello smaltimento dei rifiuti su queste navi inabissate, di cui oggi abbiamo la prima prova fotografica al largo della Calabria, con l'assessore all'ambiente della Regione Calabria Silvestro Greco, grazie a cui avviene questa identificazione, e con Enrico Fontana di Lega Ambiente. Alcune telefonate da parte vostra, poi torniamo ai nostri ospiti. Cominciamo con Chester dalla provincia di Pavia, prego. Buongiorno. Buongiorno. Sì. Grazie di avermi chiamato. Si figuri, ci Io dica. Volevo semplicemente puntualizzare alcune cose, anche per sdrammatizzare il problema che mi sembra che stia montando. La prima cosa è quella che mi chiederei: perché sono nate queste carrette del mare negli anni 80? Perché negli anni 70 non si producevano i rifiuti? No, le carrette sono nate perché negli anni 80 è nata la prima legge sui rifiuti, quindi le aziende si sono trovate nella necessità di non smaltire più i rifiuti a fianco a casa, che c'erano anche negli anni 70 e ce n'erano forse di più, ma hanno dovuto trovare delle aziende che rispondessero a questa esigenza. Siccome il sistema industriale non era attrezzato per smaltire i rifiuti mentre c'era la legge, ecco che sono nate queste aziende borderline che hanno trovato questa soluzione. Le carrette del mare però erano un segreto di Pulcinella, almeno per noi addetti del settore. Io allora ero un giovane ingegnere, ma lo sapevamo tutti che esistevano queste soluzioni illegali di smaltimento. L'altra cosa è che adesso gli si dà una veste di radioattività. Radioattività, di cosa si parla? Sicuramente non avevano scorie di centrali nucleari questi smaltimenti in mare. Probabilmente avevano qualche piccola sorgente che oramai dopo 30 anni sarà dimezzata e non avrà più una radioattività residua che possa destare preoccupazione. Lei parla di piccola sorgente, a cosa si riferisce? Piccola sorgente cosa vuol dire? Le sorgenti che venivano smaltite in quegli anni erano alcuni parafulmini, alcuni annusatori di fumo, qualche cuffia di apparecchi per le radiografie industriali che sono costituite. Chiarissimo, però naturalmente si tratta di fare una verifica intorno alle acque di questi relitti e di accertarsene. E poi, scusi se mi permetto, non è, io manco di rispetto, ma nessuno, però dice tutti sapevano, ma è possibile che tutti sapessero e nessuno poi alla fine alzasse un litino, andasse da un procuratore? Se tutti sapevano era un processo ordinario, fisiologico. Sì, naturalmente io non metto in dubbio, però è un po' singolare, la dice lunga su quali sono poi i rispetti naturali delle norme nel nostro paese. Abbiamo anche Guglielmo da Bologna, prego Guglielmo. Sì, buongiorno. Beh, un po' tutti lo sapevano, sono costretto a dirlo anch'io, e tutti lo sanno tuttora, perché in questo momento, mentre noi parliamo, decine di autotreni girano con delle bolle fasulle, capito? Partono col prodotto buono, a metà strada si fermano, lo scambiano con le porcherie e poi vanno a destinazione con le bolle pulite. Questo vuol dire, siccome ripeto, tutti lo sanno, tutto l'ambiente, presumo anche le USL, perché certe fabbriche le lasciano lavorare sapendo quello che fanno e non le toccano, forse per non dar fastidio ai sindacati e mandare a casa la gente. Sta di fatto che questo è un sistema in essere, che probabilmente mi aiuta anche a dire che, siccome per strada non ci sono controlli, e questo riguarda l'altro discorso dei gravi incidenti, questa mancanza di controlli si riflette su tutto, cioè sui carichi sporchi, sulla gente che va alle velocità che gli pare, che trasgredisce le regole, eccetera. Ecco. La ringrazio. Enrico Fontana, vediamo di fare un secondo il punto, perché se questo fenomeno nasce dalle prime leggi per lo smaltimento dei rifiuti, e naturalmente non bisogna intendere, se non ci fossero state le leggi per lo smaltimento dei rifiuti non avremmo avuto gli inabissamenti clandestini e così via, ma se tutto nasce come reazione di auto-organizzazione del sistema produttivo che cerca di aggirare queste norme, a oggi il giudizio che dà Legambiente, che su questi temi si batte da sempre, inascoltata, ma poi adesso si vedono finalmente anche le prime prove provate di quello che diceva, come del resto ci sono tanti sequestri da anni fatti dalle forze di polizia e dai magistrati sul fenomeno dello smaltimento dei rifiuti tossici non in linea con i procedimenti stabiliti dalla legge. Ma intanto partiamo da questo punto: si può esprimere un giudizio di soddisfazione sullo stato dell'arte della nostra normativa dopo 25-30 anni e che inizia nel nostro paese a porre alcuni paletti nel rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini? Qual è la sua opinione? Sicuramente no, l'Italia non ha ancora nel codice penale i delitti contro l'ambiente. Ancora oggi in Italia è stato uno dei motivi per cui poi le indagini sono state assai faticose negli anni precedenti. Immagini che in Italia il delitto di organizzazione di traffico illecito di rifiuti è stato introdotto nel 2001, quindi quando quei soggetti trafficavano rifiuti pericolosi e raccontano i collaboratori di giustizia, ma qualche piccolo riscontro è mai stato trovato, anche rifiuti radioattivi, commettevano teoricamente reati di natura contravvenzionale, tant'è che indagavano le procure presso le preture, come quella guidata allora dal dottor Neri. Questo da un'idea, questo non è cambiato, però vedete, da quello che abbiamo ascoltato e dalle parole dell'assessore c'è veramente una grande verità su questo paese in cui viviamo, no? Sapevano tutto, tutti, però la differenza è tra chi sa e chi parla, tra chi sa e tace, tra chi sa e denuncia, tra chi come l'assessore Greco, perché ama il mare, ama il suo mare, lo conosce, agisce, e chi gira la testa dall'altra parte. E questa è la grande verità su cui dovremmo riflettere proprio noi come italiani. E poi l'altra cosa, e questo non è uno scandalo localizzabile geograficamente, lo dico senza enfasi ma in maniera molto chiara, questo è uno dei più gravi scandali ambientali e non solo, che interroga e chiama in causa l'Europa. Ha una dimensione internazionale, richiede al nostro governo un impegno immediato a sostegno della Procura e dell'assessorato dell'ambiente della Regione Calabria, ma questa vicenda delle navi dei veleni, degli affondamenti sospetti nel Mar Mediterraneo va portata sul tavolo dell'Unione Europea, vanno coinvolti gli organismi europei, va coinvolta Eurojust, bisogna mettere in campo forze adeguate, strumenti adeguati alla gravità di quello che è accaduto, perché Fonti lo racconta bene, noi l'abbiamo denunciato per anni nei nostri dossier, è un sistema, non è una, come dire, un accidente capitato un giorno, non c'è soltanto una nave, ci sono altri delitti da individuare che sono bombe ecologiche innescate. Ora, senza drammatizzare, per carità, ma insomma io non sono così sicuro che non ci siano conseguenze ambientali gravi, e temo per gli smaltimenti a terra ci sono già state anche conseguenze sanitarie. Anche perché effettivamente, a giudicare almeno dalle cartine pubblicate riferite alle tante decine di navi scomparse e quindi si suppone inabissate per smaltire i rifiuti, moltissime sono nello Ionio, che ha maggiore profondità, moltissime sono in acque internazionali tra l'Italia e la Grecia, effettivamente c'è un problema grosso da questo punto di vista. Qualcuno mi aiuta a capire, magari il dottor Neri se è ancora collegato con noi, mi aiuta a capire come funziona questo fenomeno per il quale una nave può essere regolarmente rottamata da una parte e dall'altra continuare ad andare in giro invece nei mari e a farla inabissare? Cioè, è così facile contraffare le norme sulla rottamazione delle navi e sulla regolarità del fatto che possano solcare i mari, come sembra? Perché ieri sera chiunque ha sentito un telegiornale ha preso come normale che di questi delitti fotografati di cui stiamo parlando, di cui stiamo tentando di darci da fare perché vengano trovate le risorse per identificarli, sono in molti casi navi che erano state a norma dichiarate rottamate e invece poi continuavano a girare. Ma è davvero così regolare, così ordinaria questa procedura? Sì, perché le navi cambiano facilmente nome e poi erano tutte scritte in registri in società praticamente a Malta, Sri Lanka, paesi extraeuropei. Pronto? Sì. E quindi praticamente era facile darle per diciamo rottamate, mentre invece poi venivano affondate, oppure navi che venivano caricate con scorie per truffare l'assicurazione e creare una discarica abusiva. Era questa la nostra ipotesi investigativa e quello che Legambiente aveva denunciato, proprio il dottor Enrico Fontana che è lì presente, che ringrazio e saluto sempre per l'appoggio che mi ha sempre dato, sono gli unici che mi hanno creduto sempre. E quindi voglio dire, il sistema era facilissimo, cioè cambiare i nomi delle navi o praticamente che erano iscritte all'estero, quindi praticamente sfuggivano ai controlli delle capitanerie italiane, era facile poi farle affondare. Abbiamo collegato con noi Carlo Lucarelli, lo abbiamo detto all'inizio della trasmissione, buongiorno Lucarelli. Buongiorno. Che ha scritto un libro, Navi a perdere, edito da Verde Nero, la collana editoriale dedicata proprio alle ecomafie, e che ha approfondito esattamente il filone di cui, grazie a questa identificazione avvenuta a largo di Cetraro, si stiamo riparlando nella speranza di non perderci per strada l'attenzione e le risorse pubbliche necessarie per andare avanti in queste indagini. Nel libro tentava di seguire tutto il filone di queste navi a perdere, appunto. E c'era tra le tante piste, c'è una pista che porta poi anche alla morte tragica di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, ma ci sono tante piste che hanno a che vedere poi su come funziona la geografia degli smaltimenti tra nord e sud del nostro paese. Vogliamo un secondo dare la sua opinione su questo. Che impressione ha lei, che se ne parla oggi perché abbiamo fatto qualche passo avanti e c'è molto meno illecito nello smaltimento nel processo tra nord e sud del paese su questo, oppure no? No, io ho l'impressione che ci sia altrettanto smaltimento illecito. Se ne parli oggi perché appunto abbiamo trovato una nave, quindi c'è una notizia eclatante che fa in modo che cosa che già avremmo dovuto sapere da un sacco di tempo, perché le indagini del procuratore Neri, per esempio, di altri magistrati ci sono da un sacco di tempo, ci sono 3 commissioni d'inchiesta parlamentari che hanno parlato di questi argomenti, che hanno agitato queste ipotesi, ci sono ovviamente tutti i rapporti di Legambiente, c'è il mio piccolo libro, ci saranno, lo annuncio, 2 trasmissioni di Blu Notte, la trasmissione che faccio io, 2 puntate di Blu Notte proprio esattamente su questo argomento, quindi continueremo a parlarne. Dovevamo già parlarne ancora da un sacco di tempo. Io ho l'impressione che non si è cambiato molto, semplicemente adesso abbiamo questo allarme, abbiamo avuto un esempio concreto che ci ha fatto pensare che questa cosa avvenga, che è una cosa che coinvolge nord e sud Italia, ma anche nord e sud del mondo, perché la vicenda di Ilaria Alpi ci dimostra che stiamo parlando di un traffico che è a livello internazionale, ed è giustissimo quello che ho sentito prima da Fontana, questa è una cosa che deve coinvolgere l'Europa, non soltanto l'Italia. Il problema è, c'è una continuità diretta tra aree grigie, per così dire, del sistema produttivo e poi la grande criminalità organizzata che si occupa dello smaltimento e ne incassa i denari mettendoli all'estero, oppure è una parte molto minoritaria, non c'è continuità tra catena produttiva e illecito, almeno nelle carte che hai visto tu per scrivere il libro, che cosa ti fa pensare? C'è una discreta continuità, adesso non tutte le industrie ovviamente fanno queste cose qui, però c'è una discreta continuità, come c'è una continuità tra sistema produttivo, imprese e criminalità organizzata in altri campi, voglio dire, anche negli appalti, nel costruire le strade ci sono un sacco di imprese che la prima cosa che fanno è quella di chiedere chi è il mafioso locale, se devono agire nel sud per esempio, e mettersi a posto, oppure utilizzare gli soldi e gli strumenti che può avere un'impresa mafiosa nei confronti di un'impresa del nord. Mi sembra che c'è una certa continuità, perché questo non è un affare semplicemente di mafia. Ovviamente la mafia fornisce un servizio, l'Andrangheta per esempio in questo caso soprattutto, fornisce un servizio, ma fornisce un servizio a qualcuno. I rifiuti sono i rifiuti di qualcuno che consapevolmente sa che li affida ad una criminalità organizzata che andrà a interrarli, buttarli in mare o portarli in un altro paese. Quindi questa è una continuità che c'è parecchio, insomma. Naturalmente un fenomeno come questo, visto che stiamo parlando di navi affondate al centro mediterraneo che vanno e vengono da porti diciamo non troppo centrali, ma comunque porti di diversi paesi che si affacciano sul Mediterraneo e magari altrove, questo significa, quindi non stiamo parlando di un fenomeno solo di malavita calabrese, questo è un fenomeno internazionale o no? O è un fenomeno che poi si organizza con triangolazioni internazionali per rendersi meno perspicuo, ma è classicamente italiano, Lucarelli? Internazionale naturalmente, ma almeno quello che abbiamo visto, quello che si vede è un fenomeno internazionale, non è puramente un episodio di malavita calabrese per esempio, non è che si inventano loro le navi, poi vanno a cercarsi i rifiuti rubandoli e poi li buttano in mare, e qui c'è appunto una continuità tra industrie che fanno questo lavoro e che hanno bisogno di smaltire, che quindi utilizzano dei canali che sono dei canali illeciti, e questa cosa qui avviene a livello anche internazionale, perché se cominciamo a parlare soltanto, che ne so, di rifiuti solidi o di rifiuti di piccole industrie è un conto, ma quando cominciamo a parlare di rifiuti radioattivi, beh, qui già cominciamo a mettere in campo una serie di risorse e di interessi che sono abbastanza generali. Se poi cominciamo a parlare di rifiuti radioattivi di nazioni che vanno a finire in altri paesi, e non possiamo più pensare che l'ipotesi, per esempio quella nella quale si trovano Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, se vogliamo pensare che sia vera l'ipotesi che tonnellate di rifiuti radioattivi europei vanno a finire in Somalia, non è più un affare di un'andrina, voglio dire, che gestisce questa cosa. Queste sono cose gestite a livelli, chiamiamoli istituzionali, deviati, chiamiamo pure a livelli di servizi segreti deviati, e poi anche le attività di depistaggio che vediamo attorno alle volte che si scopre qualcosa di brutto o succede qualcosa di brutto come un omicidio sono talmente grosse che ci fanno pensare che qui stiamo parlando a livello internazionale. Ecco, ricominciamo con l'intervento di un ascoltatore. Abbiamo Alberto da Pordenone. Prego Alberto. Sì, buongiorno. Sì, volevo solo dire che stiamo parlando sostanzialmente di navi che partono e non ritornano. Ecco, così come sui media si legge che la Spagna controlla il mare con i satelliti, in quel caso per contro l'immigrazione clandestina, con un controllo dello stesso tipo da parte nostra sarebbe impossibile non registrare la nave che parte e non torna, insomma. Ecco, solo questo. Grazie Alberto. Naturalmente con i sistemi di telerilevamento basta poi non munirsene, e quindi è possibile che i fenomeni avvengano allo stesso modo, aggirando le norme. Abbiamo anche Barry da Salerno, prego. Buongiorno a tutti. Ci dica. È inutile complimentarvi per la trasmissione. No, infatti andiamo al punto, sì. È meraviglioso. Allora, il problema è questo. Qui si sta parlando di questa e più sospetto di questa nave che ha prodotto radioattivo, ma a Calabria, sulle montagne calabresi, hanno accertato un Cesio 137. È una verità, è un fatto. E di questo non potete non parlare questa mattina. Guardi, io la interrompo subito. Lei dice che è stato rilevato una discarica con scorie nucleari in Calabria con Cesio 137. Lo chiediamo immediatamente. Ci abbiamo l'assessore all'ambiente greco con noi. È vera questa cosa, assessore? Sì, c'è uno studio dell'ARPACAL che, sempre su indicazione della Procura della Repubblica di Paola, ha individuato un'area in comune di Serra d'Aiello dove si pensa, che si ipotizza, che a 30 metri di profondità ci siano dei depositi illegali, ovviamente. Ora abbiamo chiesto anche questo al governo, cioè che il governo, visto che in tema di rifiuti tossici radioattivi la regione non ha alcuna competenza, perché sul tema radioattività, che poi al di là, io ho sentito l'ingegnere poco fa parlava di parafulmine eccetera, però al di là del parafulmine e del discorso radioattivo, sul quale pure io dico bisogna fare chiarezza e andarci piano, perché non so cose che si possono dire con facinoneria. La interrompo solo, prego. Un secondo, siccome i telegiornali e i giornali radio hanno parlato anche di rilevazione sugli indici di tumori, linfopatie sulle coste calabresi, ma queste voci sono relative a indagini che ci sono state e con quale risultanza, per non creare poi panico inutile su questo? Esatto, queste infatti sono voci. Nell'area in cui fa riferimento il procuratore di Paola c'è uno studio di questa natura fatta dall'assessorato alla sanità della regione Calabria, da dove appunto nasce l'allarme. Ecco, però è una zona molto limitata, è una zona nella quale appunto chiediamo con forza che vengono fatti gli opportuni rilevamenti, perché la regione, io non posso mandare un tecnico a fare una carota in un sito dove c'è il rischio che ci possa essere una contaminazione di questo tipo. Poi è chiaro, anche qua bisogna vedere di cosa si parla. Sicuramente non si parla di scorie provenienti dalla centrale nucleare, anche se in effetti insomma quegli anni erano compatibili anche con questo tipo di attività. Quindi, per questo noi diciamo vogliamo chiarezza, vogliamo sapere, ma lo vogliamo sapere in fretta, perché è vero che sono state affondate nel 92, insomma, però fino ad ora non si sapeva, ma ora che c'era l'abbiamo trovata, vogliamo sapere come stanno le cose. E torno a dire, non pensi il governo italiano che se la caccia con la storia che sono 14 miglia, insomma, e quindi che sono acque internazionali, non va così, non funziona proprio per nulla, oltre al fatto che è evidente, io già l'ho detto, l'ho ridetto stamattina, è un problema del Mar Mediterraneo, quindi in ogni caso è un problema comunitario, perché noi abbiamo la responsabilità etica, i 5-6 paesi comunitari, di farci carico di un problema che coinvolge 22 paesi rivieraschi. Ma è ovvio che deve essere una cosa che si pone su un piano europeo. Ma si pone su un piano europeo, ma dove l'Italia deve fare la propria parte, non è che qua andiamo a, cioè voglio dire, andiamo a scaricare barile anche su questo, che ora qualcuno inizierà a dire è un problema dell'Europa, quindi se lo deve avere l'Europa. È un problema dell'Italia, sul quale poi è chiaro bisogna coinvolgere l'intera comunità internazionale. Ma lei col ministro Prestigiacomo ci ha già parlato, ci parlerà? Allora, il ministro è in Cina e quindi ovviamente non sono riuscito a parlarci. Ho parlato con la sua vice capo di gabinetto, che è una persona squisita e che incontro tra mezz'ora al Ministero. Quindi, dopodiché, sempre oggi ho un incontro con i miei ex colleghi dell'ISPRA proprio per ragionare, insomma, sul da farsi, su cosa loro pensano di fare. Perché mi pare di capire che qui il frazionamento delle competenze induce a non dico lo scarica a briga, perché così sembra mancare di rispetto, ma insomma a non affrontare il punto decisivo. Fontana, voi i problemi li avete sollevati con, devo dire, con grande tenacia, con passione. Io stesso avevo molti pregiudizi all'inizio, dicendo ma questi sono i nemici dell'impresa, eccetera, eccetera. Invece poi negli anni ho corretto di molto il mio giudizio, desidero darvene atto, ma non perché conti qualcosa, ma semplicemente perché molti poi che a casa hanno avuto negli anni questa idea, poi hanno fatto i conti con l'emergere di quello che denunciavate. Oggi cosa si può fare però per far uscire e far diventare dall'omertà, dalla convenienza a non parlare, far diventare più collaborativi quei pezzi del sistema produttivo che questo problema ce l'hanno e che hanno un problema di costi, di onerosità delle procedure e che quindi insomma sono tentati dal smaltire in maniera illegale? Perché se non identifichiamo procedure che inducano, che incentivino, che rendano conveniente farlo nel rispetto della legge, io temo che solo con la minaccia delle indagini della galera, come si vede, non riusciamo a trovare neanche le navi 20 anni dopo. Sono completamente d'accordo, ma guardi, noi l'abbiamo fatta questa richiesta e ci siamo dichiarati disponibili a lavorare insieme con Confindustria per fare della battaglia contro l'ecomafia quella che deve essere una grande battaglia di civiltà di questo paese. Norme più severe, semplificazione delle procedure. Sa quali sono stati i primi a darci gli elementi per fare il nostro lavoro sui traffici illegali di rifiuti in Italia? Gli industriali che gestiscono gli impianti di smaltimento finale costruiti nella legalità, che tanti anni fa mi dissero: ma vedi caro Fontana, a noi succede una cosa strana, gli impianti sono pochi, i rifiuti sono tanti, noi dovremmo avere la fila fuori dai nostri impianti, e invece lavorano al 30% delle loro potenzialità. Che fine fanno i rifiuti? Ecco, le imprese devono assumere i costi di smaltimento come costi produttivi, devono affidarsi a loro colleghi seri, ce ne sono in Italia, che vanno anche promossi, incentivati sulla filiera del recupero e del riciclaggio. Noi vogliamo difendere le imprese oneste, le imprese pulite, e per questo chiediamo oggi al governo italiano, alla Procura Nazionale Antimafia, di stringersi attorno alla Regione Calabria, alla Procura di Paola, e fare in modo tale che venga fuori tutta la verità su questi traffici illeciti. Deve diventare una operazione verità che si accompagna a una grande, grande questione che riguarda proprio lo sviluppo del paese. Tanto tempo fa, quando cominciai a fare i rapporti con mafia, un alto ufficiale dell'Arma dei Carabinieri mi disse: ma Fontana, voi che volete fare? Un po' magari il pregiudizio di cui lei parlava prima, no? Volete che noi prendiamo i battaglioni dell'Arma dei Carabinieri e arrestiamo tutti gli industriali del Triveneto? No, no, ma Fontana, questo è il punto, ma credo che nella stessa costruttività di quell'ufficiale dell'arma, nel riconoscimento che abbiamo avuto noi, ci sia il riconoscimento del lavoro serio che avete condotto per anni. Io ringrazio Fontana, ringrazio Carlo Lucarelli, ringrazio il dottor Francesco Neri e ancora grazie per le sue indagini da pioniere in questo filone anni fa. Grazie a Silvestro Greco, all'assessore all'ambiente e tutela delle acque della Regione Calabria, che avete sentito adesso si recherà al Ministero per battere il ferro, non solo finché caldo, ma per tutto il tempo che sarà necessario. Mi scuso con un ascoltatore che avevamo ancora in linea e che non abbiamo avuto il tempo di richiamare. Ringrazio anche in regia Giacomo Spunta e in redazione Alessandro Marco Tulli. Vi do appuntamento a domani. Oggi dobbiamo chiudere qualche minuto prima ulteriormente. Viva la pubblicità, ma la linea al giornale radio.